Adesso spazio a voi per le domande, se c'è qualcos'altro che volete sottolineare, prego. No, io ho una domanda, tanto che magari maturano lì. Cioè, è un'idea. Mi interesserebbe che vai a fare il refill della birra, se intanto la fa. Acqua. No, io mi sono sentito dire, ho sempre lavorato da precario, quindi contrattazione individuale, non c'è nessuno che ti protegge, sei tu, il tuo corpo, il tuo cervello di fronte anche a più persone che mirano a darti il meno possibile, a farti aprire una partita IVA finta e queste cose. E mi sento sempre dire da anni, ogni rinnovo contrattuale, ogni cambiamento, ma noi non ce la facciamo. Cioè, fanno passare questa tesi, cioè che il precariato è necessario, perché se no loro chiudono. Cioè io lavoro in una SPA, fatturano 7 milioni di euro l'anno, con clienti enormi, Telecom, IKEA, vado avanti fino a domattina, loro non ce la fanno, perché se noi in 100 persone facciamo il tempo determinato, chiudiamo. Questa è la tesi. Allora io faccio finta di crederci e dico, come si può fare a uscire da questo collo di bottiglia? Cioè, se io faccio finta di essere l'imprenditore, perché mi dovrebbe convenire fare dei contratti diversi e invece non usare questa scappatoia del precariato? Allora faccio una fantasia, creiamo qualcosa da proporre agli imprenditori, qualcosa che convenga loro. Cioè, ad esempio, immaginiamoci una filiera, una tracciabilità del lavoro, cioè come si può fare per le scarpe fatte in India o i palloni. Si dice questo pallone non è fatto dai bambini. Allora immaginiamoci che facciamo una certificazione per le imprese che utilizzano solamente certi tipi di contratti. Per cui io compro la birra, dietro c'è scritto che la Dreher assume solo a tempo indeterminato. È una banalità, cioè la penso da 2 o 3 giorni in vista di questo incontro che mi ha smosso delle idee. Però, cioè, perché all'imprenditore deve convenire? Perché poi non si può avere neanche uno stato legislatore forte, persecutore, che dice: ah, ti massacro se fai questi contratti. Quello dice: vabbè, io chiudo e vado in Cina, che mi frega. Oppure faccio nero. In Italia sappiamo benissimo, il nero non l'abbiamo. Cioè, l'evasione un po' si è toccato il tema, ma cioè, sappiamo che c'è una marea di sommerso che poi fa il paio con l'economia criminale. Per cui non lo so, cioè, dal punto di vista pratico, perché l'imprenditore dovrebbe cambiare strategia se non gliela impone lo Stato? Non so se c'è una risposta. Io però ti rispondo, io conosco imprenditori che assumono a tempo determinato perché hanno l'interesse solo a tempo determinato, perché hanno tutta l'esigenza d'impresa per assumere persone a tempo determinato e per far crescere persone. Il problema vero è che non si crea le condizioni perché le imprese abbiano questa esigenza. Questo è il dramma. Io non credo che sia cresciuto il profitto delle imprese. Io credo che sia cresciuto le imprese disoneste e le imprese che in qualche modo vivono nel sottofondo dell'economia. Questo sì, ma le imprese oneste purtroppo non stanno vedendo crescere il profitto. Cioè questo bipolarismo in realtà è andato soltanto all'economia criminale, all'economia sommersa, all'economia del nero. Questo è il dramma vero. Allora io mi domando, se proprio accetto l'idea del conflitto, ma perché non orientiamo il conflitto alla base del sistema economico, piuttosto che del conflitto che può essere giustissimo con quelle aziende che hai citato tu? Perché in realtà il problema vero è che noi non siamo in grado in questo momento di creare i presupposti di sviluppo a questo benedetto paese. Allora se dobbiamo fare conflitto, facciamo conflitto lì. E questa è la mia idea. Perché cioè, io vedo imprese che assumono a tempo determinato perché hanno interesse a farlo. Okay. Quello che vedo è che questo sistema economico non sostiene lo sviluppo, anzi lo copre e forse accetta anche tutta una serie di provocazioni, di micro conflitti che possiamo anche generare e li assorbe bene, anzi li giustifica. Prima di produrre dibattito, magari raccogliamo un po' di idee così mettiamo carne al fuoco, se qualcuno vuole intervenire. Qualche precario. L'hai detto tu, la confusione è tanta. Allora facciamo dialogare gli ospiti per adesso. Ok, vediamo se questo rompe la timidezza. Prego. Allora io se non c'è nessuno con cui dialogare, dialogo con lui subito. perché grazie, grazie. Sono battuto. Perché a me sta bene anche il conflitto, e il conflitto è una cosa difficile. Infatti sono sorpreso e quasi ammirato del fatto che siete riusciti a creare conflitto e in qualche modo una certa solidarietà tra persone che sono così ricattabili e così sole di fronte al datore di lavoro. Questa è una cosa di cui si sentiva l'esigenza e che chiaramente il sindacato tradizionale non è capace di fare. Ci ha provato, non è che non ci ha provato. Ci ha provato, ma il sindacato non è capace di farlo, non è capace di organizzare i precari e di guidarli anche al necessario conflitto, perché guardate che il sindacato molto spesso, anche quello tradizionale, è un sindacato di conflitto e si vede adesso molto chiaramente. Adesso in molte occasioni è un sindacato di conflitto, non è che solo lui lo fa il conflitto, è che è tanto più difficile farlo, è già difficile farlo con i sindacati organizzati, è molto difficile farlo con i precari perché non sono sindacalizzati, sono da soli, sono atomizzati, sono dei singoli e sono molto ricattabili, presi uno per uno. Quindi a me sta benissimo il conflitto. Il problema vero è che io non ho capito benissimo l'alternativa, cioè la soluzione che voi proponete una volta che avete sabotato l'impresa, che avete fatto capire che così non può fare. E avete magari fatto, gli avete mai fatto assumere qualcuno che prima era assunto in via precaria, l'avete fatto assumere a tempo indeterminato? Magari sì, però non mi sembra che guardandoli insieme le cose siano migliorate. Non mi sembra per adesso. Troppo, dico, non è che... Questo per dire che il conflitto ci vuole, che è giusto e legittimo, il conflitto ovviamente entra nei termini della legalità, non è quello che bruci l'azienda perché non ti ha assunto, questo mi sembra evidente, ma il problema è che questo non sostituisce poi tutto, non sostituisce il pensiero, anche quello istituzionale, quello più dei partiti e dei sindacati, su quello che bisogna fare per risolvere le cose, cioè non è che quello sostituisce in tutto per tutto. A me la dinamica del conflitto mi sta benissimo, che col conflitto tu possa raggiungere tutti gli obiettivi mi sembra una cosa che al giorno oggi come oggi non sta nelle cose, semplicemente anche vedendo anche dalla cosa che tu hai proposto, cioè se ci pensate bene, hai proposto il welfare metropolitano in modo che ti diano 400 euro che tu stai a casa invece andare a lavorare. Ho fatto l'esempio dei 400 euro per spiegare la dinamica. Ma è una dinamica che esiste da tante parti, cioè non è che c'è già questa dinamica, e c'è già in tanti paesi, in Italia non c'è perché non ci abbiamo i soldi, in tanti paesi c'è, cioè ci sono delle forme di welfare che appunto ti permettono in qualche modo di non lavorare, di stare a casa e di fare 400, in Italia c'è quella falsa, cioè c'è la falsa disabilità, cioè anche qua, anche lì non è che sono gli imprenditori, fanno gli evasori, sono ladri, sono ingiusti, ci sono tante forme, tra cui quella anche molto frequente dove non c'è lavoro o dove la gente non è particolarmente onesta, che sul welfare frega. Quindi, cioè, se tu mi fai il ragionamento che allora vogliamo, in modo da suscitare il conflitto, vogliamo un welfare che ti paga per stare a casa, cioè, allora è evidente che qua tu non hai neanche il consenso politico minimo necessario per fare il passo, perché una volta che dici questa roba qui, io voglio sapere chi ti dice sì, va bene, facciamo come hai detto tu, perché poi non è che quel welfare lì lo paga, chi lo paga? Lo paghiamo tutti noi. Cioè, non è che viene giù dalla luna, quindi evidentemente soltanto per concludere il bel giro dei commenti, quello che hai detto tu è giustissimo, guarda che il punto vero è difficile, è questo, cioè che la situazione italiana sia anomala è vero, che non sia solo l'Italia però che è in un cerchio di precariato sempre maggiore o di instabilità del mercato del lavoro maggiore, anche questo è vero. In tanti paesi però la cosa è assolutamente sotto controllo, cioè io non sono uno di quelli che dice è finito il lavoro a tempo indeterminato, ma non è vero, non è affatto vero. Il lavoro a tempo indeterminato rimane comunque di gran lunga la colonna portante dell'occupazione che c'è oggi anche in Italia. Questo non vuol dire negare il problema del precariato, perché abbiamo parlato fino adesso, ma rimane comunque la colonna portante. Il problema vero Non pensare che tu puoi tornare al lavoro a tempo determinato come se tutti i lavori a tempo indeterminato fossero uguali e debbano essere quelli che c'erano 20 anni fa, perché anche questo è impossibile. Perché non è vero così in Germania, dove tutti dicono, se volete facciamo tutt'altro, una cosa di comparazione internazionale. Cioè, è che è ovvio che non è così negli Stati Uniti, dove poi non è che sono tutti dei pezzenti, perché non è vero. Chiunque abbia visto anche il mercato del lavoro degli Stati Uniti sa benissimo che ci sono i pro e i contro, ma è un mercato del lavoro del tutto legale, legittimo, con pro e contro, però non è che è il diavolo. In Inghilterra uguale, in Germania, dove tutti dicono Germania, ha un mercato del lavoro molto più flessibile, sistema di contrattazione molto più flessibile e meno precario, ma proprio per quello, perché siccome assumere a tempo indeterminato diventa una cosa molto più favorevole per l'imprenditore, l'imprenditore non assume soltanto comunque a tempo determinato come fa qua. Qui ormai fanno così perché dall'altra parte non c'è nessuna garanzia, il tempo indeterminato è diventato molto sfavorevole, è molto protetto e i sindacati si accaniscono a proteggere sempre solo quello, compresa la FIOM, ed è per questo che non possono mai rappresentare voi, ed è per questo che esistete voi, perché altrimenti non esistereste, perché altrimenti i sindacati vi proteggerebbero in qualche modo. Invece loro non possono fare tutto, perché non possono proteggere i lavoratori a tempo indeterminato, quelli adulti, quelli di 50 anni, i pensionati, quelli delle grandi imprese, nel pubblico, come fanno adesso, e poi pretendere anche di proteggere i precari come voi o come tanti di voi, che invece hanno problemi completamente opposti, e questo non riescono a farlo, ed è per questo che esistete voi. Quindi il problema è sempre quello: come trovare un sistema nel mercato del lavoro e anche un'economia che possa sostenerlo, perché quello che dice Mazzarelli è vero, cioè non è che il mercato del lavoro è lì appeso nel niente, certo che c'è un'economia dietro che lo deve sostenere, però il problema è quello lì, cioè come rendere un mercato del lavoro in cui sia conveniente, possibile e normale attraverso un sistema di incentivi ma anche di regole molto severe. Cioè a un certo punto, che sia la tracciabilità o che sia il fatto che le imprese che, come quelle che evadono, io non sarei tanto tenero, e come quelle che assumono ingiustificatamente a tempo indeterminato fanno le partite IVA, non sarei affatto tenero. Con un metodo di incentivi e di regole molto più serio di adesso, le cose si possono migliorare, non è che sono impossibili e che siamo destinati a scivolare perennemente nel declino, nella distruzione. L'economia italiana è ancora un'economia che va, Il mercato del lavoro italiano non è un mercato del lavoro che è perso, non è vero questo. Non fatevi ingannare da questo, perché non è vero. Mi sono fatto fregare dal passaggio del... sì, l'economia italiana è ancora un'economia ricca, effettivamente lo è. Si parlava di una tendenza. Il tempo indeterminato è maggioritario, però nessuno può negare che quella, come dire, quell'ombra di civiltà che quel raggio di sole che copriva, che ha coperto per molti tempi intere generazioni, è un raggio di sole che illumina la società attuale. Tant'è vero che sono andati nel tempio, nella fabbrica. Marchionne, insomma, ha fatto l'attacco decisivo dopo la marcia dei 40.000 degli anni 80, sta concludendo. Questo ci dice che il tempo indeterminato è ancora, come dire, un contratto molto rappresentativo delle situazioni lavorative, ma non è un contratto che riesce a difendere neanche se stesso, figurarsi gli altri. Sulla questione invece del conflitto, io sono felice che dopo che l'ho citato è stato ricitato come importante l'altro, però la mancanza degli interventi prima rendeva un attimino, come dire, bidimensionale tutta la trattazione. Io adesso vi faccio subito degli esempi per dirvi: la Mondial Service, legata all'Europa Assistance, per dirvi, ha licenziato 50 persone. Queste 50 persone erano state licenziate all'interno di un quadro, come dire, di positività di bilancio, facendo utilizzo della crisi, solita cosa. È bastato che gli siamo andati a toccare alcuni meccanismi di fidelizzazione, le colazioni con l'amministratore, ci siamo presentati anche noi, colazione con Tiffany, via così, che a un certo punto hanno dovuto interrompere ogni cosa e li hanno assunti tutti. La fiera sta cassa integrando 80 lavoratori su 480 dipendenti e adesso li licenzia ed è in positivo, lo può fare. Anche in quel caso siamo intervenuti con più azioni lampo. Tra l'altro non è solo una questione di fiera, c'è la Best Union che è un outsourcer che gestisce tutti i tornelli. Ci siamo presentati al Salone del Mobile dall'amministratore delegato in conferenza stampa a dire la nostra. Hanno pagato ed hanno assunto tutti i lavoratori. È una questione di costi e benefici, cioè finché non c'è nessuno che dice niente precarizzano. Se c'è qualcuno che dice qualcosa dicono magari questa roba qua ce la leviamo. Perché all'interno di questo qua, cioè, si potrebbe parlare per mille e mille aspetti. E è verissimo quello che si diceva. Come fa un imprenditore, come dire, ad assumere se gli conviene abbassare il costo del lavoro? C'è un discorso di investimento, cioè di investimento sulla professionalità. Cioè, voglio dire, investire su una persona non significa semplicemente dargli del tu nel luogo di lavoro, di creare quella familiarizzazione. Significa semplicemente investire sulla continuità di un rapporto professionale che crea la crescita sia del profitto sia del valore della persona stessa. Perché un imprenditore dovrebbe farlo? Perché è costretto ad innovare. Non lo fa e allora possiamo esercitare le nostre ben chiare, come dire, prerogative del conflitto. Questo è un modo, io ripeto, su cui un punto di vista precario può convergere, voglio dire, con un'idea di piano industriale, come dire, di miglioramento delle politiche industriali e produttive di una nazione. Non è compito nostro, ripeto, andare a discutere su quello, suggerire alle aziende quello che potrebbero fare, perché se tu avessi un'idea molto buona su come far progredire un'azienda, tu e i tuoi compagni, colleghi di lavoro, allora è meglio che questo tipo di impresa ve lo fate voi piuttosto che andarla a suggerire al datore di lavoro, perché evidentemente ne avete la qualità. Forse probabilmente molti qua presenti ne hanno questa qualità, ma non ne hanno la possibilità, perché poi si apre anche, come dire, un sistema criminale sull'accesso del credito e su come viene gestita, come dire, l'impresa Italia. Poi fondamentalmente, io ho parlato di 400 euro per, come dire, per andare a spiegare una dinamica. L'idea che abbiamo noi, come dire, di politiche sul reddito, in una certa maniera non è molto diversa da quelle che ho letto. È diversa, come dire, come concetto, ma non è diversa nella sua impostazione. Si tratta, come dire, di andare a supportare ad integrare del reddito ad alcune persone che in alcune condizioni, per alcune condizioni non ce l'hanno. Però io ripeto, non si parla di assistenza, perché io ho fatto il caso della Lombardia, ma è un caso importantissimo, qua si produce un quarto del PIL italiano, una politica di reddito ovviamente non potrebbe farlo, nello stato attuale solo la regione Lombardia, ma una politica di reddito in Lombardia sarebbe come dire un fattore trainante per la politica in tutta Italia. Eppure qua la gente non è che sta a casa, non c'è, culturalmente non c'è l'idea di starsene a casa. Qua non si parla di pagare le persone per starsene a casa, qua si parla di integrare una quantità di reddito a persone che lavorano continuamente tutto l'anno e che quando non hanno lavoro sono in paranoia, perché sono sempre a disposizione dei datori di lavoro o a dirsi voglia del capitale, ma non ricevono, contrariamente a quello che è successo, pur lavorando praticamente sempre ed essendo sempre a disposizione, non ricevono un reddito sufficiente. Cioè è molto semplice. Da qualche parte questi diritti escono dalla porta, devono rientrare dalla finestra. La continuità di reddito da un'altra parte deve essere garantita. E qua arriviamo all'ultima parte. Tutte queste forme di conflitto, diciamo che negli ultimi tempi stanno trovando una certa forma, un certo successo. Tant'è vero che quando abbiamo fatto gli stati generali della precarietà, io non so di chi di voi ha partecipato, ci siamo trovati all'Arci Bellezza, in due giorni sono passate 500 persone, sono passati politici, personalità politiche di partiti importanti. Non sto parlando, adesso lo dico con il rispetto, voglio dire, non sto parlando dei partiti della diaspora della sinistra. Sono passate persone interessate che riuscivano a trovare il nesso, che finalmente percepivano il nesso fra una pratica di conflitto e una pratica di rivendicazione. E qua si torna alla questione. La questione dell'evasione è fondamentale, delle economie criminali, qua si potrebbe dire, si potrebbe aprire un capitolo a parte, infatti con... non so se conoscete l'avvocato Giovannelli, si sta facendo tutto un lavoro sulla questione dell'economia criminale che verrà esemplificata nei quaderni di San Precario, riusciranno a dicembre e tratteranno di tutte queste cose, spot pubblicitario. Però la questione è fondamentale. Praticamente la voglia, come dire, la possibilità di spendere per delle politiche di reddito e non di sostegno delle imprese che non si capisce come le spendono per questi soldi, è direttamente proporzionale al livello di incazzatura generale esistente in una nazione. Più c'è una situazione di subbuglio, poi i politici cominciano a dire: beh, però non è una cattiva idea dare una forma di reddito. Non c'è buona volontà, benevolenza, illuminazione che tenga, soprattutto in una nazione come l'Italia adesso, che è fortemente dominata da un settore, da un solo settore imprenditoriale molto legato a, cioè imprenditoriale mediatico legato a connivenze mafiose. Non c'è la possibilità di una lungimiranza, c'è solo una strada, fondamentalmente, che si crei un moto popolare di indignazione molto diffuso che attraversi i diversi settori produttivi e sociali, che così, e i segnali si cominciano a vedere. Non dico che si sta creando delle cose, ma delle sperimentazioni abbastanza importanti ci sono. Il mio punto di vista, diverso da loro, che rispetto d'altronde, cioè nel senso, il mio punto di vista, che un pochino di protagonismo, un po', come si dice, un po' di agitazione, un po' di incazzatura, soprattutto finalizzata a degli obiettivi precisi, non a darla fuoco alle imprese, via così, è necessario. L'invito che vi faccio è: dopo gli stati generali della precarietà, noi stiamo aprendo in diverse città metropolitane di Milano tutta una serie di sportelli di agitazione, come dire, preannunciati da alcuni momenti di formazione e di confronto su queste tematiche. Lo stiamo facendo a Baggio, come si sta parlando di fare a San Giuliano, come si parla a Milano un altro sportello, come si sta parlando di altri luoghi. Si sta cercando di capire se si riesce ad avere, come dire, un reticolo di 5, 6, 7, 8 situazioni che possono essere dei presidi, che possono essere dei fari, dei momenti di riferimento a tutti quei precari che pensano di essere isolati ma non lo sono. Questo significa non semplicemente aprire uno sportello, perché noi sappiamo perfettamente, noi quando arriviamo al momento legale del tribunale, tendenzialmente perdiamo. Fondamentalmente si vince prima, se si vince si vince prima. Una proposta che vi faccio, se vi interessa questa tematica della precarietà, svilupparla, è di aprire un confronto e vedere se è possibile, come dire, anche a Cinisello portare questo tipo di proposta. Ovviamente prendo un confronto. Ok, grazie ai nostri ospiti, e in conclusione vogliamo dire che oggi abbiamo messo gli ingredienti, il minestrone lo vogliamo fare assieme. Per questo sul tavolo c'è un elenco dove potete lasciare i contatti, ci interessa parlare di lavoro e di altre tematiche nazionali, ma anche avere una visione più chiara e partecipata sulla città. Lì c'è la lista dei contatti, ci sono materiali che ci riguardano e c'è anche una dispensa che approfondisce queste tematiche. L'offerta è libera, potete dare qualsiasi cifra, qualsiasi moneta, quindi approfittatene. In chiusura c'erano due ragazzi che volevano intervenire su un'altra questione, lascio il microfono anche se non so dove. Grazie comunque.